Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay tra ricerca affettiva e pensiero divergente. Questo posto proviene dall'esperienza diretta degli ultimi mesi di scambi di mail, di conversazioni in chat con ragazzi che mi hanno fatto capire quanto sia difficile creare un rapporto personale profondo con l'altro, per il permanere di pregiudizi legati alla visione tradizionale della vita affettiva. Il discorso merita molta attenzione, perché spesso le incomprensioni, la tendenza alla drammatizzazione e all'esasperazione dei toni, e peggio ancora la tendenza a interventi invasivi poco rispettosi della persona dell'altro, contribuiscono concretamente all'aumento della dimensione problematica di certi fatti che andrebbero invece capiti, mettendo del tutto da parte i preconcetti. L'analisi psicologica standard dei significati dei comportamenti, cioè l'analisi condotta sulla base dei modelli standard, andrebbe ridimensionata, a vantaggio di una comprensione più genuina e umana, cioè meno legata a pregiudizi e a modelli, più rispettosa dell'altro e nello stesso tempo più profonda dell'essere gay e delle relazioni affettive che in quest'ambito si possono creare. Se per un verso la dimensione emotiva è fondamentale e ci distingue dalle macchine, per l'altro verso l'emotività, secondo la visione standard, andrebbe controllata per evitare che desse luogo a fenomeni ansiosi che creano disagio e che complicano inutilmente la vita. Ma questa ovviamente è la visione standard. È difficile per tutti mantenere un vero equilibrio tra razionalità e affettività, ma per i ragazzi gay non è raro arrivare alla estremizzazione, cioè a ragionamenti che concludono nel vedere le cose o in bianco totale o in nero totale senza nessuna sfumatura intermedia. Espressioni come l'amore non esiste, esiste solo l'egoismo, oppure tutti mi dicono di volermi bene ma stanno solo cercando qualcosa per sé perché tutti sono egoisti, sono complementari ad espressioni come io non potrò mai innamorarmi di nessuno perché sono radicalmente egoista e penso solo a me stesso. In tutte queste frasi domina un estremismo radicale, o tutto o niente. E siccome l'esistenza degli affetti è considerata una specie di favola, la visione apparentemente razionale consiste nel prendere atto dell'egoismo universale come se fosse una regola di vita. Alla base di tutti questi ragionamenti ci sono molto probabilmente delle delusioni affettive forti o delle esigenze affettive che non è facile soddisfare con le ordinarie relazioni interpersonali, anche con le ordinarie relazioni d'amore. Perché la convivenza in coppia ha delle regole, richiede delle forme di adattamento alla realtà dell'altro che non è mai lo specchio fedele momento per momento dei nostri desideri. Ma queste forme di adattamento per un ragazzo che ragiona in termini radicali, escludendo per principio qualsiasi tipo di compromesso, sono difficilissime da realizzare. Va aggiunto che per certi ragazzi la tendenza all'analisi astratta dei fatti è dominante e procede in modo implacabile verso la demolizione del significato dei rapporti affettivi, che sono visti in termini astratti come forme di debolezza e di dipendenza dall'altro alle quali bisogna abituarsi a resistere. Tuttavia, al di là di questi ragionamenti radicali, in questi ragazzi c'è comunque un'esigenza affettiva profonda che si manifesta in comportamenti che sono in netta contraddizione con le certezze logiche così marcatamente affermate. Ma questa esigenza affettiva viene combattuta come una forma di debolezza e di schiavitù. A seconda del prevalere della dimensione affettiva fortemente autorepressa oppure di quella razionale astratta, si percepiscono forti oscillazioni dell'umore che danno a chi le vive il senso della propria inaffidabilità e quindi della inettitudine alla vita di coppia. Spesso la sessualità prende il posto dell'affettività e diventa quasi una forma di affermazione della propria libertà di agire al di fuori dei coinvolgimenti affettivi. Va chiarito che situazioni come quella descritta si presentano tipicamente nei momenti di crisi della vita affettiva, quando un legame stabile durato anni viene meno. Il meccanismo stesso che porta alla fine del legame di coppia, cioè la percezione dell'insoddisfazione, e vissuto quasi con sensi di colpa, ma anche con forti esitazioni. Per un verso si vuole chiudere il rapporto di coppia perché rappresenta un vincolo e una limitazione della propria libertà, e per l'altro si percepisce, anche se in modo oscillante, l'importanza di quel rapporto che pure teoricamente si vuole chiudere, ed è proprio su queste oscillazioni che il pensiero si concentra e la sofferenza si acuisce. Tralascio il fatto che stati emotivi così turbati possono creare difficoltà negli studi, nei rapporti con gli amici e con la famiglia, possono dare l'avvio a una serie di reazioni a catena che possono peggiorare sensibilmente le cose. Che cosa è possibile fare in concreto? Francamente me lo sono chiesto parecchie volte e non ho trovato risposte pienamente convincenti. Data la coincidenza di questi stati emotivi con i momenti della crisi di coppia, siano gli stati emotivi causa o effetto della crisi di coppia, verrebbe spontaneo pensare che l'avvio di nuovi rapporti affettivi possa essere capace di catalizzare un ritorno ad un'affettività meno estremizzata. Resta però che i nuovi rapporti, che potrebbero partire almeno sul piano sessuale, difficilmente assumerebbero una dimensione affettiva, data la resistenza forte di fronte all'affettività. Aggiungo che quando la sessualità diventa un modo per supplire ad un'affettività che è comunque respinta, la sessualità si carica di valenze che per il partner sono estremamente difficili da capire, e questo non facilita i nuovi rapporti di coppia. Prendere l'iniziativa sessuale in questa ottica significa farsi valere senza cedere all'affettività e lasciare all'altro la possibilità soltanto di rispondere favorevolmente. Non solo, ma appena nel rapporto di coppia si ripresenta la forma o la sostanza di un rapporto affettivo, il rapporto tende automaticamente a venire meno e si mira di nuovo alla indipendenza affettiva, fermo restando che si tratta di un'autonomia e di un'indipendenza teorica che poi di fatto non alleviano il dolore del distacco. Ecco che allora torna ad emergere il valore della semplicità. Chi sta vicino a ragazzi che vivono queste situazioni, che non sono affatto rare, non può tentare la via del ragionamento, perché in termini strettamente logici il ragionamento astratto out-out ha tutta l'apparenza dell'evidenza assoluta. Tipo, il determinismo assoluto è un dato fisico, noi quindi siamo rigidamente programmati. Beh, controbattere queste affermazioni in termini astrattamente logici non ha senso, ma la debolezza di questa affermazione sta proprio nel fatto che è astrattamente logica. Se il determinismo fosse percepito come assoluto, il 99% dei prodotti della mente umana non avrebbe alcun senso. Quindi, messi da parte gli strumenti di carattere logico, che d'altra parte sono quelli che in questi ragazzi tendono a svalutare la vita affettiva, l'unica cosa che ha realmente senso resta proprio una presenza affettiva ma debole, cioè una presenza che non metta in dubbio l'assoluta libertà dell'altro, che non lo obblighi a nessuna scelta e a nessuna coerenza. Va chiarito che questi ragazzi, almeno in certe fasi, presentano veri problemi di disadattamento sociale. Sono comunque portatori di un pensiero autonomo e divergente, spesso assolutamente originale e coerente. In altri termini, il disadattamento deriva dal fatto che le reazioni emotive e l'affettività di questi ragazzi non si conformano agli standard. Questo, per un verso, provoca sofferenza, ma per l'altro, quando si stabilisce un contatto umano serio, permette di scoprire orizzonti del tutto nuovi e inediti della vita affettiva, non riducibili ai comuni denominatori che governano in genere l'affettività. In altri termini, la sofferenza di questi ragazzi coincide con lo sforzo di creare un loro sistema autonomo e originale di pensiero, molto meno condizionato da standard e da preconcetti. Si tratta di un'opera molto difficile di preservazione del sé, che urta contro preconcetti e modelli standard di comportamento e che tende ad evitare l'ingabbiamento in quegli stessi standard. Parlare con questi ragazzi spiazza l'interlocutore, perché lo mette di fronte ad un'affettività ed un pensiero razionale realmente autonomi. Mantenere questi livelli di autonomia è difficile, perché la socializzazione, che tende a stabilizzare l'affettività, tende anche a standardizzarla e a ricondurla a modelli di comportamento accettati. La fatica di dare alla luce un pensiero autonomo, un'affettività senza sovrastrutture, produce sofferenza e senso di isolamento, ma permette, quando lo permette, forme di scambio e di dialogo che sono uniche. C'è un atteggiamento che in genere manda in bestia questi ragazzi ed è quello del paternalismo, di quelli che pensano di avere capito tutto, di avere la ricetta buona per tutte le situazioni. Paternalismo significa sostanzialmente incomprensione e sottovalutazione e addirittura valutazione in chiave patologica degli sforzi che questi ragazzi mettono in atto per rimanere se stessi e per non finire standardizzati perdendo la loro individualità, che è un valore assoluto. Con questi ragazzi il dialogo può esistere solo alla pari, cioè solo se l'interlocutore accetta onestamente di confrontarsi, cercando di aprirsi anche a cose che al primo contatto non capisce affatto. La semplicità, cioè la capacità di mettersi in gioco senza riserve, è allora la prima caratteristica per creare un dialogo proficuo. Chi ha in mente di risolvere i problemi dell'altro senza capire lo sforzo, la sofferenza e il lavoro di ricerca che è nella mente dell'altro, negherà all'altro l'apporto di un confronto costruttivo e a se stesso un'importantissima possibilità di crescita umana. Il rifiuto dei modelli e la conseguente emarginazione, i comportamenti devianti, ma devianti proprio in relazione a quei modelli, il rifiuto dei compromessi, il disimpegno rispetto all'insieme dei valori comunemente accettati, producono solitudine e sofferenza. E questa solitudine e questa sofferenza meritano rispetto assoluto. Per un interlocutore esterno è realmente spiazzante rendersi conto che le ordinarie tecniche di approccio falliscono ed è quasi automatica la reazione di rifiuto di ogni ulteriore tentativo di dialogo. Il fatto è che per creare un dialogo reale, un potenziale interlocutore dovrebbe arrivare a mettere realmente da parte i propri schemi e i propri preconcetti, cosa quanto mai difficile. È molto più facile usare la categoria del disadattamento sociale o psicoaffettivo, dando per scontato che i modelli standard siano gli unici possibili e quindi siano la norma del pensiero e del comportamento. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto.